L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, il 25 maggio, era il 146esimo giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:42 e tramontava alle 20:32. La luna, crescente, sorgeva alle 7:40, discendeva alle 23:20. Potevate seminare, nell'orto oppure in vaso, patate, carote, cipolle, ravanelli, scalogno, oppure piantare fiori ornamentali, naturalmente antiparassitari, come il taggete. L'altro ieri avvenne. 1241, la comunità ebraica di Francoforte sul Meno, città della Germania sud-occidentale, subisce uno dei primi attacchi antisemiti. 1521, Martin Lutero viene proclamato fuori legge. 1810, a Buenos Aires, cittadini armati cacciano il viceré di Spagna, stabilendo un governo provinciale dell'Argentina. 1895, il commediografo, poeta, romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una carcere di Londra. 1925, John T. Scoops viene incriminato per aver insegnato la teoria evoluzionistica di Charles Darwin. 1935, Jesse Owen stabilisce o eguaglia 4 record del mondo in atletica leggera. L'anno dopo vince 4 medaglie alle Olimpiadi di Berlino. 1958, in Italia si svolgono le elezioni politiche per il rinnovo dei 2 rami del Parlamento. 1992, a Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, vittime della strage di Capaci. 25 maggio del 2000, il Libano celebra la liberazione del sud del paese dopo 22 anni di occupazione israeliana. Moriva in Vietnam il 25 maggio 1954 Endre Erno Friedman, fotografo ungherese noto come Robert Capa. Di lui ci raccontano le ragazze dell'almanacco. Approfondimento dell'almanacco dell'altro ieri a cura di Maria Elisa Di Rivombrosa e Banana Naio. Endre Erno Friedman, noto più come Robert Capa, nasce in Ungheria da una famiglia ebrea proprietaria di un'avviata casa di moda. Capa è un bambino vitale e rissoso che in famiglia viene soprannominato Bambi, ma l'accezione non è proprio come quella che gli diamo in italiano. Bambi vuol dire squaletto in ungherese. Ha solo 17 anni quando viene arrestato per le sue simpatie comuniste e appena liberato abbandona la terra natale alla volta di Berlino. Là si iscrive ad un'università nella facoltà di scienze politiche, sognando di diventare giornalista. È solo per mantenersi che trova un impiego presso l'agenzia fotogiornalistica Depot, guidata da Simone Gutmann. Nel 1932 il signor Gutmann ha tutti i vecchi fotoreporter impegnati su differenti fronti e con gran fiducia invia Robert Capa allo Sport Palast di Copenaghen per assistere all'intervento di Trotsky sulla rivoluzione russa. Immaginatevi questo evento pubblico, che portata straordinaria, perché dopo 3 anni di confino finalmente Trotsky riappare al mondo. Giunto sul posto, il nostro Endre Erno scopre che è vietato fotografare per questioni di sicurezza, poiché Leone, il nostro Trotsky, teneva fortemente un agguato stalinista. L'accesso è quindi interdetto a tutti i fotografi accorsi con le loro vistose attrezzature al collo. Beh, il giovane studente ungherese comunque riesce ad entrare perché ha la sua piccola Leica nella tasca. Riesce ad entrare nella sala e, come uno spettatore qualsiasi, comincia ad immortalare Leon Trotsky, realizzando quelle che sono tra le più belle fotografie di questo leader politico arringatore. Nel 1933 il Partito Nazionalsocialista tedesco prende il potere e Capa è costretto a emigrare ancora una volta da Berlino a Vienna, per poi l'anno successivo partire la volta di Parigi. Ma in Francia incontra non poche difficoltà nel trovare lavoro come fotografo, ma diciamo d'altra parte è proprio nei caffè di Montparnasse che conosce David Seymour e che a sua volta lo presenterà a Cartier-Bresson, e questo sodalizio nel 1947 li porterà insieme a George Roger e il William Vandiver a fondare la cooperativa Magnum, che a differenza delle altre agenzie puntava a tutelare i diritti dei fotografi sui loro scatti. La stagione parigina però regala a Robert Capa anche il suo grande amore, Gerda Taro. Lei profuga tedesca, migrata anche lei per motivi politici, è grande fotografa e tocca dirlo che tra i due sembra un po' la più sveglia, non solo perché nell'agosto del 36 Gerda riesce a procurargli un accredito stampa per documentare la guerra civile spagnola, ma perché è sua l'idea di cambiargli il nome da Andre Erno Friedman a Robert Capa. Si narra che dietro a questo cambio di nome ci siano numerose motivazioni più e meno realistiche, ma secondo me e Maria Elisa di Rivombrosa, sicuramente in un'Europa in cui imperversava il nazismo, un cognome così ebreo come Friedman di certo non aiutava né nella vita né nel business. Proprio grazie a questo espediente del nuovo nome, la coppia moltiplica le proprie commesse e moltiplica i propri guadagni. In effetti il marchio Capataro fu usato indistintamente da entrambi i fotografi. Speriamo che in francese suonasse un po' come Capataro, perché Capataro a Roma sembra un po' il quagliaro. Da ricordare inoltre che Robert Capa si consacra alla fama mondiale con la foto scattata nel 1936 a Cordova, in cui ritrae un soldato dell'esercito repubblicano con addosso una camicia bianca, ripreso proprio nell'attimo in cui appare colpito a morte da un proiettile sparato dai franchisti. Foto più che controversa, perché oltre a restituire al mondo la crudezza della guerra, ne dà anche il peso dell'istante della morte. La foto appare ed è subito Querelle in cui i detrattori affermano che questa foto sia frutto di una ricostruzione a tavolino e chi invece sostiene che qui Capa sia stato veramente capace di cogliere lì che non che della guerra. Purtroppo proprio questa guerra, che gli regalerà il gran successo, gli volterà le spalle, rubandogli per sempre il suo grande amore, Gerda, che nel 1936 muore tragicamente durante una ritirata a Brunete ad ovest di Madrid. Robert Capa non è mai interessato nei suoi fotoreportage ad immortalare l'aspetto più macabro o sensazionale della guerra. Nelle sue foto non ci sono i morti, ma ci sono i vivi che testimoniano gli eventi. La sua fotografia di guerra racconta, non dichiara perentoriamente. Ed è questo lo spirito che lo accompagna nel 1938 quando va per 6 mesi in Cina per documentare la resistenza contro l'invasione giapponese. L'anno a seguire lo troviamo invece a New York e poi a Omaha Beach, nell'estate del 1943, quando si reca lì per immortalare lo sbarco delle truppe americane in Normandie. Tra il 48 e il 50 invece si trova a Tel Aviv per documentare il conflitto arabo-israelo-palestinese, poco dopo l'avvento di Ben Gurion, quella merda. Sopravvissuto anche a questo conflitto, vissuto sempre in prima fila con la sua macchina fotografica, decide di documentare la guerra dei vietnamiti contro i colonizzatori francesi. Ed è proprio nella prima guerra di Indocina che la sua curiosità e la voglia di testimoniare lo portano ad allontanarsi dal convoglio a cui era stato assegnato e lì purtroppo calpesta una mina antiuomo e muore. Era il 25 maggio del 1954. Le parole di John Steinbeck, suo carissimo amico, secondo me Banana Naio, sono quelle che più succintamente colpiscono al cuore di questo genere di reportage e con queste vi salutiamo. Capa sapeva che cosa cercare e cosa farne dopo averlo trovato. Sapeva ad esempio che non si può ritrarre la guerra, perché è soprattutto un'emozione. Ma lui è riuscito a fotografare quell'emozione conoscendola da vicino. Il 25 maggio del 1895 Oscar Wilde, scrittore e commediografo di successo, viene condannato a 2 anni di lavori forzati perché giudicato colpevole di omosessualità. In quel periodo l'omosessualità è considerata un reato e lo scrittore aveva intrattenuto una relazione con il figlio del marchese di Queensberry. Quest'ultimo, venuto a conoscenza del rapporto tra il figlio, Lord Alfred Douglas, e Oscar Wilde, intraprende una campagna persecutoria contro il noto scrittore. Il marchese si sente ogni giorno più umiliato dal comportamento del figlio, in un'Inghilterra vittoriana dai severi costumi sociali e impotente di fronte al rifiuto di Alfred di rinunciare a tale relazione, comincia a perseguitare lo scrittore, che denuncia il marchese per diffamazione, inconsapevole che quel processo si sarebbe rivoltato presto contro di lui. Quando si rende conto di aver intrapreso il percorso sbagliato e del probabile boomerang che il suo gesto potrebbe comportare, mostra la sua fragilità emotiva, ritirando l'accusa contro il padre del suo amante. Ma ormai è tardi. Il 18 febbraio del 1895, John Douglas denuncia Oscar Wilde per sodomia. A sostegno della sua tesi porta dinanzi alla corte alcuni ragazzi probabilmente assoldati per dichiarare il falso che testimoniano contro Oscar. Presiede la corte il giudice Wills, che si compiace nel trovarsi dinanzi a sé Wilde, che si proclama innocente, ma adduce motivazioni che mostrano un uomo convinto di non aver commesso nulla di male. Chiacciato dalla mentalità ottusa dei ben pensanti di quel periodo, il 25 maggio Wilde è condannato a 2 anni di lavori forzati. Il giudice Wills gli infligge il massimo della pena, mostrando anche rammarico per non aver potuto applicare la legge non più in vigore che prevedeva per quel genere di reato la condanna a morte. Gli anni di detenzione sono durissimi e minano già il fragile sistema nervoso dell'autore, rovinandogli definitivamente la carriera artistica. La sua salute ne risente pesantemente, nessuno acquista poi più i suoi libri e le sue commedie vengono ritirate dalla scena. A ciò segue la bancarotta finanziaria, il divorzio dalla moglie e il divieto di rivedere i propri figli. Durante i 2 anni di lavori forzati, una ferita alla cui infezione non viene mai curata, con molte probabilità prova la prematura morte di Wilde per meningite, 3 anni dopo la scarcerazione. In quegli anni terribili, sottoposto ad un regime carcerario durissimo, lo scrittore si aggrappa a una speranza, il sostegno del ragazzo amato, Bosie. Questo non accade, Bosie si allontana da lui e Oscar Wilde, ferito dalla freddezza del suo amante, prova a scrivere una lunga lettera, una lettera famosa, De Profundis, che però la direzione carceraria non consentì allo scrittore di inviare. Dopo il suo rilascio, nel 1897, Wilde si rifugia a Parigi sotto falso nome e scrive La ballata del carcere di Reading, in cui esprime il suo risentimento verso una società pronta a condannare, a giudicare, senza mostrare un minimo di empatia e di comprensione. Si scaglia contro la crudeltà della pena di morte ed un sistema carcerario volto a distruggere la dignità di un uomo. Le parole pronunciate da Oscar Wilde durante il processo scatenarono un lungo applauso da parte di alcune persone presenti in aula. L'amore, che non osa dire il proprio nome in questo secolo, è un grande affetto di un uomo per un altro uomo. Che così sia, il mondo non lo capisce, se ne fa beffe e a volte mette qualcuno alla vergogna per questo. Qui si chiude l'almanacco dell'altro ieri. Un saluto a tutte e tutti, soprattutto a coloro private e privati della loro libertà. È finita la commedia.